Gli scopi rimangono fondamentalmente quelli che ci hanno mosso già l'anno scorso, appunto, a creare questo festival che nasceva appunto come piccolo festival della divulgazione, ma già nella prima edizione abbiamo eliso praticamente nella sostanza questo piccolo, perché insomma è diventato un progetto un po' più ambizioso, e come l'anno scorso cerchiamo di portare alle persone l'opportunità di ascoltare relatori molto competenti, non solo nell'ambito, insomma, del loro settore, ma anche competenti capaci nel comunicare le informazioni, che possano essere scientifiche, storiche o filosofiche o di altra natura. Quindi lo scopo è quello di incentivare, appassionare le persone alla conoscenza, all'approfondimento, proprio in contrapposizione, no, alla superficialità che caratterizza un po' i nostri tempi, le fake news, alla pseudoscienza, quindi a tutto quello che inquina un po' il dibattito pubblico. C'è una sorta di slogan, un invito che rivolgete al pubblico, quello di portarsi curiosità. Sì, direi che è l'unico strumento di cui hanno bisogno gli spettatori per poter godere di queste conferenze, che sono tutte assolutamente gratuite, e quindi basta portarsi un po' di curiosità per portare a casa informazioni, ma anche appunto la curiosità poi di approfondire in un secondo momento, di continuare magari a seguire questi divulgatori sui vari canali social e nei libri che scrivono, nei documentari che producono, per appunto continuare ad approfondire e a cercare, insomma, una modalità di approccio alla conoscenza adeguata e corretta. Durante la seconda edizione ci saranno conferenze, ma anche laboratori, teatro, proiezioni di documentari, quindi insomma sono diversi linguaggi, però sempre coi fini divulgativi. Possiamo dare qualche anticipazione? Accanto alle conferenze, quindi accanto agli incontri pubblici, abbiamo voluto, come già l'anno scorso, arricchire questo festival di una serie di laboratori, di incontri gratuiti nelle scuole per le ragazze e ragazzi, proprio per lo spirito di, come dire, andiamoli a prendere giovani, abituiamoli fin da subito a questo tipo di approccio. E poi appunto tante conferenze, forse è il caso magari di citare i nomi più importanti. Avremo Adrian Fartad, che è un divulgatore molto, molto noto sui social, che ci farà una conferenza di astronomia dal titolo "Dove nascondere un cadavere nel sistema solare". Insomma, già dal titolo si capisce, no, un po' lo spirito anche un po' ironico e divertente del comunicare. Avremo Vera Gheno, che ci parlerà di linguaggio inclusivo. Avremo, e questa è una chicca che abbiamo ottenuto, cioè avremo il social media manager di Tafo, Riccardo Pinrone, che ci verrà a parlare di come si sopravviva la vita con ironia. E poi tanti altri incontri: avremo fotografi naturalisti, avremo Guido Barbujani, un genetista molto bravo, che tra l'altro ci è già venuto a trovare anche l'anno scorso. Avremo Francesco Filippi, uno storico, e poi appunto collaborazioni anche con rassegne teatrali, come può essere appunto la rassegna Agorà, che caratterizza un po' la nostra zona nord di Bologna, e poi tanto altro, documentari. Avremo anche un concerto con una conferenza di Giorgio Fabbri sull'orchestra, insomma come si costruisce un brano sinfonico. Quindi avremo tanto, serve solo la curiosità, come dicevamo prima. L'anteprima sarà l'11 di marzo, quindi questo sabato, però a Bologna all'Archiginnasio. Cosa succederà? Succederà che avremo una conferenza fotografica di Francesco Tommasinelli, che è un fotografo naturalista molto bravo, che collabora con la RAI, in particolare con Geo Engeo. E questa conferenza, L'arte di immaginare o L'arte di ingannare, diciamo a due titoli, è proprio dedicata al mimetismo animale. Quindi vedremo immagini e filmati in cui, insomma, ci farà scoprire le meraviglie del mondo animale e vegetale, di come appunto ricorre al meccanismo del mimetismo. E sempre però sul mondo animale cito un'altra conferenza, che anche questa direi è molto interessante, sul cibo del futuro, con Lara Maestrello, l'entomologa dell'Università di Modena, che ci parlerà appunto di come si stia andando nella direzione di trarre proteine e alimentazione anche dal mondo degli insetti. Sì, tema di grande discussione in queste ultime settimane. In realtà il Festival della Divulgazione è un festival itinerante che si svolge in diversi luoghi della città metropolitana. Infatti nasce come idea, come concezione, appunto a San Giorgio di Piano, quindi pianura nord di Bologna, promosso appunto da questo comune, dal nostro comune, insieme all'Unione Ranogaliera, che è l'unione di comuni a cui apparteniamo, ma ospitato anche in altri comuni appunto dell'Unione. Quindi saremo a Pieve di Cento, dove c'è un bellissimo teatro che ospiterà due eventi, saremo a Bentivoglio, saremo a Castelmaggiore, saremo ad Argelato, e appunto poi con l'anteprima arriviamo quest'anno con la seconda edizione anche a Bologna. Non resta che dare i riferimenti per scoprire il programma completo. completo? Sì, allora c'è un sito che è festivaldivulgazione.it, una pagina Facebook che potete cercare come Festival della Divulgazione, e poi insomma materiale pubblicitario che troverete in giro sui social, nei vari siti istituzionali dei comuni e anche nelle biblioteche di Bologna, proprio grazie a questa collaborazione che parte quest'anno.